ya. Pretendo. O sete. Divento. Di pace. Per almeno un momento. Di armonia. Silenzio, gloria nell'alto dei cieli, ma in questa terra vedo solo veleni. Ci vuole altro per riconciliare l'uomo con l'amore. Quando potremo vedere tutto il sole con gli stessi occhi? Quando ci sarà in questa terra un posto per tutti, giustizia. Pretendo per tutti i popoli di questo mondo, per le contadine abbandonate nel fango, per chi non avrà mai né un futuro né un sogno. Gloria nel più alto dei cieli, ma in questa terra vedo solo veleni. Ci vuole altro per riconciliare l'uomo con l'amore. Quando potremo vedere sole con gli stessi occhi? Quando ci sarà in questa terra un posto per tutti, giustizia. Pretendo ora, subito, in questo preciso momento, prima che torni Isaia a spezzare le reni di chi si arricchisce sull'agonia, di chi fa sfoggio di ogni ignominia. Gloria nell'alto dei cieli, ma in questa terra vedo solo veleni. Ci vuole altro per riconciliare l'uomo con l'amore. Quando potremo vedere tutto il sole con gli stessi occhi? Quando ci sarà in questa terra un posto per tutti, giustizia. Pretendo che il peggior diluvio è dell'uomo figlio. Ritrova il tuo sentiero, il tuo essere giusto, il tuo essere fiero. Ascolta questa mia supplica, prima che crolli ogni mistero. Gloria nell'alto dei cieli, ma in questa terra vedo solo veleni. Ci vuole altro per riconciliare l'uomo con l'amore. Quando potremo vedere tutto il sole con gli stessi occhi? Quando ci sarà in questa terra un posto per tutti? Gloria nell'alto dei cieli, ma in questa terra vedo solo veleni. Ci vuole altro per riconciliare l'uomo con l'amore. Quando potremo vedere tutto il sole con gli stessi occhi? Quando ci sarà in questa terra un posto per tutti, giustizia.